Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Leopoldo Mastelloni legge Amore e ginnastica di Edmondo De Amicis. Dopo quel giorno Don Celzani fu un altro. Non aspettò più la maestra per le scale, si mise a fumare dei sigari Virginia, bazzicò il vicino caffè del Monviso, frequentò il teatro Alfieri, prese un'andatura più disinvolta, si diede alla sua opera di segretario con un'operosità non mai veduta, come se le proprietà del commendatore si fossero triplicate tutta un tratto, e spinse la bizzarria fino a cambiare il suo eterno cravattino di seta nera con una cravatta di color turchino che gli dava un'aria addirittura baldanzosa. Tutti gli inquilini notarono quella trasformazione, lo sentivano qualche volta solfeggiare per le scale, lo vedevano salire o scendere a piccoli salti, lo incontravano per la strada in compagnia di giovani della sua età, con i quali non l'avevano mai visto, gesticolante, con una faccia nuova, con mosse e impostature di prete spretato che volesse dissimulare il suo carattere antico. Il solo ingegner Ginoni conobbe il perché di quel mutamento e se ne prese spasso. Diceva al segretario, incontrandolo, «Cadde l'incanto e a terra sparso il gioco! Bravo, segretario!» E questi gli rispondeva con un gesto comico, come per dire «Tutto è passato!» E così durò per tutto il mese di marzo. Dopodiché ricadde più perdutamente innamorato di prima. Ma come si fa, Dio grande? Ai primi giorni della nuova stagione, la Pedani aveva messo su un vestitino di lanetta color marrone, guernito con una stralicciatura di seta nera, semplicissimo, una miseria che poteva costare 30 lire con la fattura e che aveva forse anche dei difetti di taglio. Ma la sarta vera e meravigliosa era la persona che lo riempiva e lo tirava, informandolo ai più seducenti contorni che avesse mai trovato uno scultore di idee. Passando accanto a Don Celzani a passi svelti gli diceva «Buongiorno», con una nota d'oboe, spiccata e profonda, che pareva un grido involontario di voluttà troncato a mezzo. Il povero Don Celzani resistette a 3 o 4 di questi incontri, poi perdette la testa, lasciò il caffè Monviso, il teatro, gli amici, i sigari Virginia, le corse per Torino e i baldi atteggiamenti, e della sua audace ribellione d'un mese non gli rimase altro segno che la cravatta turchina. Ma durante quel mese Don Celzani aveva meditato, e frutto delle sue meditazioni fu che, entrando nel nuovo periodo, cambiò di tattica amorosa, si sforzò di dare alla sua passione l'apparenza di una tranquilla amicizia. Egli fermava la maestra su per le scale e le si accompagnava, attaccando discorso a qualunque proposito, ragionando del tempo, degli orari scolastici, di una riparazione da farsi, di un inquilino, di una pazzecola, pur di parlare e di intrattenerla, di abituarla alla sua compagnia, di persuaderla bene che essa poteva star con lui d'ora innanzi senza che egli ricadesse nelle dichiarazioni passate. In tal modo si incominciò a stabilir fra loro una certa familiarità. Celzani, ostinato e intrepido, continuava a colorire il suo disegno, cercando di guadagnarsi la buona amicizia di lei. le fece un giorno un vero piacere portandole un numero del Ginnasta Triestino, venutogli a mano per caso, che conteneva un articolo sulla danza pirrica. Le portò un'altra volta un numero della Tribuna, che riceveva lo zio, nella quale era riferita la risposta negativa data dall'ufficio d'igiene del municipio di Roma a tutte le direzioni delle scuole che l'avevano interrogato intorno alla maggiore o minor convenienza di tenere gli alunni nella posizione di braccia conserte. La maestra gradì molto l'offerta, dicendo che aveva già trattato l'argomento in un articolo, ma il segretario le preparava ben altre sorprese. Era tentato da un po' di tempo di intavolare con lei certi discorsi ai quali s'andava apparecchiando, ma non osava. Un giorno avendogli essa detto che frequentava un corso d'anatomia, egli le rispose timidamente: «L'anatomia, lei fa bene perché senza quello studio non si può conoscere il valore fisiologico dei singoli esercizi e, senza di questo, gli esercizi non si possono classificare fisiologicamente, che è l'ordine più utile». La maestra lo guardò con stupore e approvò. Era un primo passo. Un altro giorno si fece anche più animo e le domandò che cosa pensasse della questione degli attrezzi. Anche questa domanda la stupì gradevolmente. Egli rispose: «Non stava con coloro che ne volevano abusare mirando a convertire le palestre in circhi acrobatici. Ciò spaventava le famiglie ed era veramente un pericolo, ma dava torto anche agli esageratori della parte opposta, che li volevano addirittura abolire. Dove si sarebbe andati per quella via? A una ginnastica bambinesca, con cui non sarebbe stata appunto educata nei fanciulli quella facoltà speciale che è il coraggio fisico, a tutti necessaria, senza la quale non si riesce più tardi in nessun esercizio civile arrischiato, se non a prezzo di sforzi penosi e di figure ridicole». Don Celzani approvò, con ripetuti cenni del capo. commendatore possedeva dei libri di ginnastica avuti in dono dagli autori durante il suo vice assessorato dell'istruzione pubblica, dei pacchi di numeri del ginnasta retino che gli aveva mandato anni addietro un amico toscano. Don Celzani leggeva ogni cosa per prepararsi certe domande e certe risposte e così poteva sostenere la conversazione. Ora, quando erano su quei discorsi, la maestra si soffermava ogni quattro scalini ed egli aveva così un agio delizioso di ammirarla, come non l'aveva mai avuto, e imparava a memoria tutte le pieghe, tutti i bottoni, tutte le fettucce di quel terribile vestito color marrone. Scopriva dei piccoli movimenti abituali di lei, che non aveva mai osservati, studiava i suoi denti, bianchi, uno per uno, faceva con l'occhio dei veri viaggi d'esplorazione intorno alle sue forme, così profondamente assorto alle volte in quelle indagini amorose che dimenticava di rispondere, o rispondeva a casaccio. Se non che, in questo gioco, egli perdette ben presto quella padronanza di sé che era necessaria ai suoi fini. A poco cominciò a pensare che fosse rivolta a lui la simpatia che essa mostrava per l'argomento delle loro conversazioni. Gli pareva d'essere salutato, guardato, ascoltato in tutt'altro modo da quello di prima. Risentiva dei fremiti sotto lo sguardo che ella gli fissava negli occhi nell'esporgli le sue ragioni. Fu due o tre volte sul punto di tradirsi, di afferrare il suo braccio per aria quando accennava un movimento alla trave di sospensione. Si contenne però, ma prese tanto coraggio da decidersi a una nuova prova, più accortamente preparata dell'altra, da tentare il primo giorno di maggio, quando ella fosse tornata in casa sua a portare la pigione. Credeva che questa volta non gli avrebbe più potuto dare una ripulsa assoluta. Un legame c'era fra loro, l'idea che, sposando lui, ella avrebbe avuto un collocutore intelligente per le sue conversazioni predilette, uno specchio riflettore perpetuo della sua passione dominante, una specie di segretario intellettuale. Gli pareva che dovesse avere un gran peso sulla sua determinazione. Ed egli aveva in serbo, per darle l'ultima spinta, la rivelazione d'un piccolo segreto che per certa vergogna teneva gelosamente nascosto da un po' di tempo a tutta la casa. Ma, ahimè, non era più un segreto per tutti. Il giorno prima di quello fissato da lui per far la sua terza dichiarazione, lo studente Ginoni, entrando in casa all'ora di desinare, diede una notizia che fece prorompere tutti in una risata. «Papà!» disse incrociando le braccia sul petto. «Ne vuoi sapere una incredibile? Don Celzani va alla palestra!» Le speranze fondate da Don Celzani sul primo di maggio furono mandate a monte da un avvenimento imprevisto. Il commendatore, che per scansar le visite dei suoi pigionali soleva ogni primo del mese passar la giornata di fuori, stette in casa quel giorno ribadito come sempre sulla sua poltrona, come se li aspettasse. Don Celzani, che aveva fatto tutti gli apparecchi per l'assalto, n'ebbe una stizza da addentarsi le mani. Sperò fino alle 11 che egli si decidesse ad andarsene, poi perdette ogni speranza e prese a girar per le camere col diavolo in corpo. Ma un pensiero consolante gli balenò a un certo punto, che lo zio avesse curiosità di vedere un po' da vicino la Pedani e di discorrer con lei, poiché non erano corsi fra loro che dei saluti di scala, e che questo fosse un indizio di buone intenzioni. Forse egli aveva davvero quel disegno, e allora il suo dispetto si cangiò in impazienza. Sarebbe venuta come l'altra volta al tocco e mezzo. Al tocco il commendatore era seduto nello scrittoio con la maestosa testa bianca abbandonata sulla spalliera della poltrona e gli occhi azzurri al soffitto. La maestra entrò e parve che non le spiacesse di trovar là il padrone di casa, forse perché questi rendeva impossibile una nuova dichiarazione che essa temeva. Thank you. Il commendatore era con i suoi pigionali d'una rara compitezza e osava col bel sesso delle forme straordinariamente rispettose e dignitose. S'alzò, s'inchinò con gli occhi chiusi davanti alla ragazza e, rimettendosi a sedere, insisté perché sedesse lei pure. Il segretario prese i danari e scrisse la ricevuta con le mani malferme, lanciando continui sguardi di sotto in su a tutti e due. Era preso da una commozione di ragazzo, come se la Pedani avesse fatto la sua prima entrata nella famiglia e si dovesse concludere il matrimonio in quella seduta. «Ebbene, signorina», domandò il commendatore con dignità, temperata da un sorriso cerimonioso, quando il segretario ebbe rimesso il foglio alla maestra, «come va la ginnastica?» Era evidente che voleva farla parlar lungamente. La maestra rispose che era sempre alle stesse, una quantità di pregiudizi da vincere nei parenti delle alunne e anche nelle autorità, per il che gli insegnanti dovevano sostenere una lotta continua, a scapito, si intende, dell'insegnamento. «Nella ginnastica femminile, soprattutto», disse il commendatore gravemente. «Nella femminile, soprattutto», ripeté la Pedani, animandosi. «Per un mondo di riguardi non fondati. Ella lo saprà, io non dico che si possa subito, con le idee di adesso, attuare il concetto dei baumanisti avanzati di non fare alcuna differenza fra la ginnastica maschile e la femminile, ma al punto a cui si vuol ridurre questa è veramente troppo». Il commendatore ascoltava, con gli occhi azzurri fissi alla volta, come immerso in una contemplazione celeste, muovendo lentamente il capo in segno di assenso. «E con questo», continuò la maestra, «ciò che ci appassiona sempre più per le nostre idee è il vedere che progressi si ottengono anche con quel poco che ci è permesso. Lei non può credere il mutamento che si nota dopo un mese di ginnastica nelle ragazze dai 12 anni in su, e tanto più in quelle che sono magre e anemiche per malattie sofferte nell'infanzia o per linfatismo acquisito. In un mese si allarga il rossore delle guance, che era soltanto un cerchietto. Le braccia si arrotondano, il dorso si raddrizza, i muscoli si rilevano. Alle volte, a guardarle di dietro, non si riconoscono più. Paiono donnine fatte, hanno acquistato quella eleganza e sveltezza dei movimenti che formano la vera bellezza estetica, specialmente negli arti inferiori. Uno sviluppo da far rimanere sbalorditi. È veramente una cosa consolante». Sì, era consolante anche per il commendatore, che seguitava il corso dei suoi pensieri, e fece una domanda che parve scaturire da una profonda meditazione. «Oltre a questo», disse, «ella avrà anche delle particolari soddisfazioni da quelle poche che hanno per la ginnastica un'attitudine fisica eccezionale e un ardore uguale al suo, perché sopra un gran numero ce n'ha da essere sicuramente». E socchiusi gli occhi, tornò a fissarli in alto come per assaporar la risposta. «Ah, questo sì!» rispose la maestra eccitandosi. «Ce ne sono! Ed io ormai le conosco alla prima occhiata, la prima volta che si presentano, che non è poi tanto facile, perché non sono mica sempre quelle più asciutte e d'apparenza più svelte che hanno le migliori attitudini. Queste derivano dalla struttura più o meno armonica delle membra. Ci sono delle grasse, per esempio, che si crederebbero pesanti e impacciate, e invece hanno un'agilità, un'elasticità da fare stupire. Bisognerebbe che il signor commendatore potesse vedere, nelle ore di ricreazione, alle figlie dei militari». Il commendatore chiuse gli occhi. «Perché», seguitò la maestra, «il regolamento della ginnastica può restringere i movimenti finché vuole, ma poi, fuori della lezione, le più brave fanno quello che vogliono. Ce n'ho una dozzina a San Domenico, tra i 14 e i 18 anni, che potrebbero dar spettacolo in un teatro, delle vere acrobate, che fanno dei giri sulla sbarra fissa, da dar le vertigini, dei salti con la pedana ad 1,5 metri d'altezza, dei volteggi», e soggiunse con un sorriso. «Fortuna che non c'è spettatori, ma le dico delle braccia e delle gambe d'acciaio, dei vitini che scattano come molle, una bellezza, le assicuro, e dire che si potrebbero ridurre tutte tutte così, sarebbe una benedizione. Il commendatore ne era persuaso più di chi che sia, e dopo una breve meditazione, riscotendosi tutto a un tratto, disse il suo pensiero: «Speriamo, signora maestra, che a poco ci si verrà. Le buone idee finiscono sempre con vincere. Intanto le resistenze cedono da tutte le parti, e lei prosegua con costanza il suo apostolato, che fa un'opera santa per il bene delle nostre povere bambine. Gliene dobbiamo tutti esser grati». La maestra s'alzò, ringraziando, s'alzò egli pure, e prevenendo il nipote, l'accompagnò garbatamente fino all'uscio, dove le fece un inchino profondo. Il segretario, che per tutto quel tempo era rimasto in piedi in disparte, immobile, non perdendo una sillaba della conversazione e spiando a vicenda i due visi, gongolava al pensiero che la maestra doveva aver fatto allo zio un'eccellente impressione. Questi, ritornato indietro, si fermò in mezzo alla stanza e, passandosi una mano sulla canizie maestosa, disse con accento paterno, quasi parlando tra sé, «Una simpatica signorina», e rimase come assorto nel suo pensiero. «Dunque», domandò trepidando don Celzani, «lei non avrebbe più da fare alcuna obiezione?» Lo zio parve che non capisse subito quello che voleva dire, poi, quando capì, rispose trascuratamente, «Per me nessuna, solamente», soggiunse guardando il nipote da capo a piedi, «ha il suo consenso?» Questi prese il suo atteggiamento di chierico con una mano nell'altra e, abbassando gli occhi sfavillanti, rispose con voluta umiltà, «lo spero». «Vedremo», disse lo zio, squadrandolo ancora una volta e risedutosi sulla poltrona con la nuca alla spalliera e gli occhi socchiusi, si sprofondò da capo nei suoi pensieri. Leopoldo Mastelloni ha letto Amore e ginnastica di Edmondo De Amicis, realizzazione tecnica di Lorenzo Grego, a cura di Fabiana Carovolanti e Anna Marzetti, con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello, @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.